Senta, cuffetta. Aiuto. Mari. Frappè, Gio Mari, arrivo subito. Non mi sta solo. Arrivo subito, Gio Mari, stavano uscendo e sto, Gio Mari, arrivo subito. Se parla. Arrivo subito, sto uscendo un attimo, arrivo subito. Vai, vai. Ebbè, molti siete. Bello bei. La, la, la. Attento, Marino, se ascolti Calamascio. La. Hello?